Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Con quante parole si può esprimere l'amore? Con tre, io credo. Amore, amore, è un'altra che non mi ricordo. Di fronte a tanta gente che parla, l'amore è sordomuto. Ho bisogno di vedere piuttosto te che un'altra persona. Ho bisogno di vedere piuttosto te di un altro rapporto che possa solo superficiale e non costruttivo di noi due. Ho bisogno solo delle tue labbra. Ho bisogno delle tue labbra superiori. E lo so che avrei colpito nel ventre molle delle mie ascoltatrici, ventre molle in senso naturalmente ideale, non fisico. Avrete delle pance tonicissime, durissime, a prova di slip. Io di slip naturalmente quelli sotto ombelicali. Questa mattina non mi va molto di lavorare, devo dire, fanno tutti il ponte. Io sono una delle poche persone che viene in diretta insieme all'ottimo collega che mi ha preceduto e pochi altri residui, quindi voglio fare un argomento che non mi impegni particolarmente e quindi voglio parlare d'amore. Perché voglio parlare d'amore? Perché onestamente, dopo una lunga e travagliata esistenza dedicata alle cure familiari, alle cure professionali, io mi sono dimenticato cosa sia l'amore. Probabilmente non ho più riferimenti letterari, ideali, ipotetici, sulle quali io da giovane mi ispiravo. Ah, sognavo le pene d'amore, soffrivo pene d'amore, quanto ero felice per le pene d'amore, mi ricordo che leggevo Gustavo Adolfo Becker, uno sfigatissimo romantico, che sognava l'amore, diceva cosa sarebbe la vita, soffrire significa vivere. Io tutte le volte che m'accannava qualche fidanzatina, qualche amore fugace, qualche intima d'azione sgraffignata nei vicoli di Perugia, mi dannavo, leggevo Becker, dicevo che bello, c'è la poesia che mi conforta, anch'io sto vivendo un'epoca romantica. Ma quali sono i riferimenti amorosi oggi? Ma non lo so, ve ne posso citare qualcuno a braccio, cogliendo da reminiscenze lontane, la poetessa Saffo, l'amore forsennato, l'amore era qualcosa che ti prendeva, ti faceva tremare le gambe, scomparivi, ma quando mai succede più questo? Ricordo, a me piaceva molto Catullo, me lo leggevo soprattutto quando diceva che quello che dicono le donne va scritto nel vento che soffia lontano, va scritto nell'acqua, è privo di degna fede. Beh, Catullo, se lo rileggo oggi, mi sembra di guardare un cinepanettone, mi sembra di vedere i personaggi di Boldi e De Sica, molto divertente, ma come mai passa per un poeta amoroso, uno che racconta scelleratezze, sconcezze e macchiette, come vedere appunto i personaggi di un vecchio B-movie con Alvaro Vitali, con Edwige Fenech. Andando ancora avanti, avete un modello, l'amor cortese, che bello l'amor cortese, le damigelle, i trovatori, i sogni, cioè parlavano di amore quando in realtà cercano le mistress, volevano essere malmenati, picchiati, maltrattati. A tutto loro meno interessava che trombarsi poi le persone che, sulle quali inanellavano lunghe chiacchierate, sonetti e languidi amori. Faccio un salto di secoli e arriviamo forse a quella che è il modello più recente, più sfruttato, che ancora ha delle sue, dei suoi epigoni molto, molto, molto frequentati in televisione, l'amore romantico, quello fatto di lettere, fatto di sospiri, fatto di persone desiderate, fatto di uomini che partivano per le guerre, non tornavano mai, e quando tornavano trovavano donne che li aspettavano, si erano consumate, scrivendo lettere su lettere su lettere. Beh, dopo la fase ultima di questo amore, che sono i romanzetti di Liala con i suoi aviatori, è subentrata la versione contemporanea, che sono uomini e donne, i tronisti, i corteggiatori di Maria De Filippi, che più o meno reinterpretano quei ruoli, ma in maniera naturalmente priva di supporti letterari romantici. E detto questo, cosa rimane? Cosa vi ispirate quando parlate d'amore? Perché ancora mi raccontano le mie attempate amiche, attempate, tutte oltre la trentina naturalmente, molto vicine alla cinquantina, che mi dicono, sai, quella nostra amica è innamorata, sta vivendo una storia d'amore. Dopo il quarto marito, il quindicesimo amante, ha raccattato qualcosa in un suo tour vacanziero in qualche isola romantica e si è attaccata con le unghie, avvinghiata, questo poveraccio cerca di scappare via, cerca di liberarsene, perché anche lui dovrà mantenere avere tre mogli, avrà un sacco di problemi. Questa è la versione contemporanea dell'amore. Ecco, detto la scelleratezza di cui io sono capace, mi affido a una persona che in realtà conforterà i vostri cuori sanguinanti, rimetterà insieme i pezzi dei vostri cuori infranti, e questa è Gianna Schelotto. Gianna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come al solito hai già detto tutto. Ma che ho detto tutto? Tu devi dire. Allora, Gianna Schelotto, perché è qui? Prima, perché è una psicoterapeuta della coppia, cioè ci sono ancora coppie che vanno alla psicoterapeuta quando il peso delle corna diventa insopportabile per l'uno e per l'altro, dice vabbè, prendiamoci questo fardello e andiamo a qualcuno che ci può dare un aiuto, se no da soli non usciamo. Ha scritto un fantastico libro uscito per poco da Mondadori, SOS Cuori Infranti, guarire dal mal d'amore. Prima domanda, ma perché bisogna guarire dal mal d'amore, cara Gianna? Perché si sta malissimo, dai. Voglio dire, tra le pene, tra le sofferenze, diciamo, diffuse a tutti i livelli e per qualsiasi motivo, le pene d'amore sono veramente profonde, la gente sta veramente male, ma apparentemente si sta male perché si è perduto l'amore, e che ogni volta che si perde un amore si perde anche un pezzetto di se stesso, delle proprie illusioni, delle proprie aspettative, e quindi la sofferenza è molto grande, perché l'identità un po' si sfarina. Sì, ma io guardando il tuo libro mi sembra aver capito che la sensazione di perdere un amore si ha perché ancora si è legati a modelli di coppia, a modelli di santa giustificazione sociale di un proprio amore, quindi l'amore che si perde è quello che non può essere incasellato in questa sorta di riconoscimento sociale. Se non esistesse per assurdo più l'idea della coppia, non esistesse più l'idea del matrimonio, l'idea del fidanzamento, l'idea tu sei mio, io sono tua e via dicendo, l'amore potrebbe durare in eterno, perché sarebbe transeunte, fluttuante, liquido. Certo, cioè, l'amore è liquido, ma tu non te ne rendi conto, perché nel momento in cui hai questa esperienza straordinaria di essere innamorato, hai l'impressione di aver investito soltanto su una persona. E voglio dire, io ho scelto questo titolo un po' fanè, SOS cuori infranti, un po' ironico anche, che è una roba dell'Ottocento sembra, ma perché io resto sempre sbalordita quando mi confronto con queste sofferenze d'amore, che sono le stesse che raccontava Leala o che raccontava Catullo. Cioè, quando c'è questa... Non ci sono altri modelli, Gianna, vedi, proprio così. Da allora in poi... Sì, certo, è da allora che non è cambiato niente, che i modelli sono diversi, però io ho il dubbio che un modello... Noi parliamo molto di passaggio dalla coppia fusionale, cioè la coppia dove si era l'uno per l'altro, dove l'uno era la metà dell'altro, e stiamo parlando del passaggio da quel tipo di coppia... Ma che è mai esistita? È mai esistita, Gianna? Nella realtà, cioè, oltre la... È esistita quando le donne facevano, come dire, la metà della metà. Quando c'erano le donne, come tu raccontavi prima, che erano a casa, che si consumavano, che aspettavano, e però convinte che quell'amore sarebbe stato il completamento di sé. Adesso ognuno nella coppia si spera che non veda più nell'altro il completamento di sé, ma che si senta completo per conto suo, e che poi l'amore sia, come dire, un degno arricchimento, ma io, sono integra, sono completa, e lui non è la mia metà e io non sono la metà di me. Eh sì, ma un amore che finisce è sempre un arto fantasma, sempre che ci manchi qualcosa. E l'amore che finisce invece ci porta, ci riporta, riemerge nell'amore fusionale, nella coppia fusionale, dove io senza l'altro perdo un pezzo di me, perdo una parte di me. E in realtà è un po' così. Io ricordo sempre quando ero ragazzina che avevo chiesto a un mio professore perché Ulisse avesse tanta smania di tornare da Penelope, quando aveva a disposizione tutte le più belle donne dell'antichità, ma perché voleva tornare? E lui mi rispose una cosa che da allora ancora ripenso, e cioè che Ulisse tornava dalla moglie perché la moglie era entrata a far parte della sua identità. Cioè, nel momento in cui lui doveva rispondere alla domanda chi sono io, c'era dentro anche tutto quello che aveva dato e ricevuto da Penelope. E poi anche può essere in chiave più moderna, perché con tutti quei proci intorno improvvisamente si è accorto sì, che aveva bisogno di lei, che le apparteneva. Se fosse stata a casa da sola ad allevar Telemaco, magari rimaneva gli altri 10 anni. Può darsi, invece c'era, come dire, c'era l'eccitazione che veniva dall'uomo, dal maschio, all'idea di sfidare gli altri uomini, di sconfiggere tutti gli altri e di riprendersi il suo cimelio. Ecco, allora, 800240024, che non a caso abbiamo chiamato Gianna Schelotto per darvi preziosi consigli. Io posso solo demolire le vostre fragili certezze. Prima ascoltatrice, Maria Filippa da Torino. Maria Filippa, buongiorno. Buongiorno. Io devo intanto ringraziarla del suo libro che ho letto e che... Sì, non c'entra una mazzuola con questo libro. Benissimo. Grazie, mi fa molto piacere. Però. Sì. Non... Ma è amore anche questo. Sì, ora parliamo di amore carnale, amore peloso, di amore, amore per un figlio, un'altra cosa. Benissimo. Infatti io volevo proprio fare questa distinzione tra l'amore carnale e l'amore mentale. Sì. Io non sono giovanissima perché ho 67 anni. Vabbè, ancora gli può dar sotto, scusi. Non è... Sì, certo, sicuramente, però non ho più intenzione di mettermi in discussione con un'altra persona. Ritengo che l'amore mio sia mio e probabilmente io lo usavo e lo uso. Scusi, andiamo sui fatti pratici, se no astraiamo, è tutta un'astrazione. Sì. Sembravamente i tronisti di Maria De Filippi. Tu mi hai detto in quell'uscita che tu pensavi, che io pensavo, che tu dicevi. Concrete, fatti. Fatti, benissimo, io non ho il televisore, per cui non vedo Maria De Filippi, io ascolto la radio. E quindi già le manca molto, quindi, per essere una donna dei suoi tempi. Non mi manca per niente. Dicevo, l'amore vuole un fatto. Sì. Io posso parlare di un amore che credevo fosse per un'altra persona, mentre invece ero io che lo creavo verso questa persona. Cioè, lei si era attizzata per qualcuno che nemmeno la considerava. Sì, mi considerava per quello che faceva comodo a lui. Cioè, quale cosa faceva comodo a lui? Beh, la distrazione dalla famiglia, una donna un pochino diversa. Sia beh, qual è il problema? Guardi, nel libro di Gianna Schelotto ci sono millanta esempi di amanti che tutta la vita attendono che l'uomo faccia il grande passo, poi si rendono conto immancabilmente che da loro vuole soltanto distrazione. Beh, un amante a questo serve, scusi, se no una moglie, qual è la differenza? Non ho capito, mi scusi. Un amante a questo serve per avere distrazioni, momenti di gratificazione e poi uno torna a casa. Non lo sapevo. Sia dell'uomo che della donna. Sì, però sì, in questo quadro. Perché l'amante si lamenta, se ha scelto questo ruolo, questo fa. Ma infatti, questa non è una lamentela, è che in questi casi siamo soltanto noi, cioè ero soltanto io che creavo questa situazione, perché mi faceva comodo credere nell'amore. Non eravate contenti, scusi, lei aveva la sua illusione d'amore, lui aveva la sua intima d'azione settimanale, e qual era il problema? Gianna Schelotto. Sì. Perché si lamentano ancora questi amanti? No, ma tu sei, voglio dire, sei troppo drastico. Nel senso che si spera che l'amore possa diventare una corrente di andata e di ritorno, invece spesso questi ritorni o sono diversi da quelli che ci aspettiamo o non ci sono affatto. E quindi il problema è che spesso l'innamorato continua a illudersi, continua a sperare che l'altro prima o poi diventerà quello che abbiamo scritto sul nostro foglio bianco. Ma quanti anni sono che tu scrivi nei tuoi libri questa storia qua? Il marito che alla fine illude e alla fine arriva questa drastica, ma il marito poi la moglie perché deve lasciarla? Ma è anche fisiologico, per averne un'altra, per ricominciare da capo con un'altra. L'amante quando entra nel ruolo di moglie diventa moglie e quindi non può altro che temere, certo, L'arrivo di un amante. Certo, ma si trasforma molto velocemente l'amante in una moglie, nel senso che continua a porre dei problemi, ad aspettarsi che lui faccia delle cose che proprio perché ha scelto l'amante non intende fare. Ma perché, scusa, l'equivoco di fondo è quello. Gianna, mi dichiari questa cosa, a me di farlo capire. Allora, come nella vita c'è chi sceglie di fare il ragioniere, il medico, il biscazziere, il rapinatore, il missionario, se qualcuno nella vita sceglie di fare la moglie, qualcun altro sceglie di fare l'amante, perché non si trova realizzato nel suo ruolo? Perché tutto è basato su promesse sbagliate, su promesse, su bugie anche, su bugie che l'uno racconta all'altro, ma esiste anche l'amore che senza bugia? Uno racconta a se stesso. Esiste amore senza bugia? Non voglio sembrare Marzullo, ma onestamente, l'amore è fatto di compromesso, se no che amore è? Ma il compromesso è diverso dalla bugia, perché il compromesso richiede la partecipazione di entrambi, esplicita. Mentre la bugia è quella che agisce sotterranea, poi è vero che le bugie hanno un senso soltanto se l'altro fa finta di credere. Un'amica mia molto intelligente le chiama le mezze verità, dice non bisogna dire bugie, bisogna dire le mezze verità. Che poi sono le bugie bianche, le cosiddette bugie bianche, adesso le abbiamo anche colorate le bugie, tanto per riuscire a sostenere degli argomenti antichi quanto il mondo e fragili ed evanescenti. Sentiamo qualche ascoltatrice. Donne, Dania da Livorno. Ciao, buongiorno a te, all'ospite. Ma sempre Dania, la solita Dania chiama sempre. Volevo solo dire, come fai che... a eludere la barriera ad alta tensione che si può chiamare soltanto una volta ogni millanta mesi? Dai nomi falsi? No, va bene, io ho fatto più di 3 settimane fa. Ah, va bene. Cioè, allo scadere la terza settimana richiami subito. Qual era l'argomento dell'ultima volta per cui avevi chiamato? L'argomento dell'ultima volta... Aspetta, non mi ricordo. Vabbè. Allora, volevo solo dire che per ogni cuore infranto ci sono almeno 2 cuori che battono all'unisono. E questo ho avuto modo di osservarlo da amiche che piangevano disperate per il loro amore finito, ma dall'altra parte osservavo anche i loro mariti strafelici e strafelici anche le loro nuove conquiste per il nuovo idillio che si era creato. E tu da che parte stavi? Di quella felice o di quella affranta? No, io sono stata affranta. Sarà anche stata felice. Sì, vabbè, cioè tu dici, dice Dani, in un equilibrio cosmico tra felicità e infelicità, alla fine, se facciamo i conti, per ogni cuore infranto ce ne stanno 2 che in realtà hanno trovato una loro momentanea e felice completamento. Va bene, sentiamo un po' che dirà Gianna Scotto. Valeria da Roma. Sì, dunque io volevo dire una cosa, perché è passato tanto tempo, mio marito mi ha lasciato 3 anni e mezzo fa, ormai tanto, ma io non esco. Non esce, loro saranno anche felici, ma chi se ne frega, io sto malissimo. Ancora dopo 3 anni e mezzo, non se ne è fatta una ragione? Ma che? E cosa fa? Aspetta che suo marito torni? No, ci ho rinunciato. Però ma cosa fa? Lo impietosisce mostrando lei che è malata, non mangia più, sta male, soffre? Sì, malissimo. E ostenta il suo soffrire, sperando che lui si impietosisca. E a volte sì, a volte però sento anche quanto sono felice. Ma le posso dare un segreto che gli uomini non dovrebbero mai rivelare? A un uomo, quando lascia una donna, vederla affranta, piangente, sofferente, gli fa ancora più schifo, proprio la vorrebbe vedere morta. Questo lo capisco. Però lei dovrebbe mettersi lo slip interdentale e le autoreggenti, andare in giro per strada con dei lottatori di lotta greco-romana per poterlo interessare. Io questo lo capisco, e a volte non arrivo a questi livelli, però insomma a volte mi mostro anche al mio meglio, ma non c'è niente. Ma lui fare. Deve saperlo che lei gli dà sotto di brutto, allora vedrà, si ritroverà forse. Come faccio a farglielo sapere? Che ne so, si mette sotto casa, stesa, non lo so, si inventi, tu a farlo subito. Lei ha fatto l'affranta, l'ha fatto l'affranta, ma metta su internet, faccia un filmino su YouTube, faccia vedere quanto è felice. Cioè, ma tanto poi, ma che ci fa con uno straccio d'uomo dopo 3 anni e mezzo, quando se l'è già sciroppato e avrà al peggio un'altra donna? Se ne trovi un'altra, qual è il problema? E non lo trovo, è questo il fatto. Beh, non ribatte chiodo, questo è un altro problema. Ma perché è particolarmente impresentabile? Qual è il suo problema? Non ho idea, no. Diciamo che è una stanza da cui non riesco a uscire, quindi non riesco a... Ma emana odori sgradevoli, Valeria? Scusa? Lei emana odori sgradevoli? Sono romana? Lei emana odori sgradevoli, le faccio una domanda. No. Quindi non ha nessun particolare ostacolo a trovare altri uomini? No, perché non se ne trova un altro? Non lo so, perché sono sempre chiusa a casa, credo. Beh, se sta chiusa a casa, certo, giusto l'ispettore del gas che viene a leggergli una volta l'anno la bolletta, perché sennò chi trova? Che pizza, vabbè. Esca, non riesco a uscire perché sono avviluppata in questa schifezza di spirale. Vabbè, non so che dirle. Neanche io so che dirle, no, così... Lo so, io adesso non voglio mettere le mani in una materia troppo delicata. Gianna Schelotto, ti affido Valeria, perché nelle mani mie finirebbe male. No, ma la chiave di tutto sta in quel non esco, nel senso che è chiaro che è come se lei, lo so che dico una cosa che irrita, ma è come se lei si fosse affezionata a questo suo ruolo di sofferente e di infelice. Non è così, nessun uomo vale tanto, e quindi se lei parte dal presupposto che non si libererà di questo dolore, non riuscirà mai a guardare. E prima di tutto, perché bisogna cercare per forza un altro uomo, o si può riprendere se stessi godendosi? Ma sia anche un animale da compagnia, qualunque cosa, esatto. Adesso no, forse prima o poi tornerà la primavera, fra un po' arriva l'estate. delle cose che abbiamo intorno, cioè sicuramente lei si è imprigionata in questo ruolo ed è affezionata a questa sua sofferenza. Cerchi di liberarsi da questo ruolo di vittima che le piace anche un po', forse. Senti Gianna, ma da questo non ci libereremo mai, manco se per assurdo entrassimo in una società futura in cui ognuno fa quel che vuole. Ci rimarrebbe sempre questa sorta di gioco che dobbiamo farci del male quando qualcuno ci manca, perché improvvisamente ci crea una voragine. Io evidentemente non siamo attrezzati ancora mentalmente ed emotivamente per questo tipo di cambiamento. Certo è che c'è di che restare sconcertati, perché sentire l'ascoltatrice di adesso sembra uscita da un romanzo di Viala, sembra uscita da cose antichissime, non ne esco, non voglio più vedere nessuno, nessuno mi vuole, perché appunto ci si incasella in queste situazioni e non si fa il minimo sforzo per modificare le cose. L'altro non è altro che un'ombra fuggente, come diceva la vecchia poesia, cioè non ha più nessun senso. Se anche tornasse, probabilmente la stessa ascoltatrice non riuscirebbe più a ricostruire nulla con lui. La minestra riscaldata è una delle esperienze più negative che uno può fare nella vita. La sconsiglierei comunque a chiunque. Esattamente. Il ritorno del passato è qualcosa di... Uno si domanda, almeno questo quando da giovane mi accadeva, dice: ma cosa, chi me l'ha fatto fare? Come ho fatto io a sognare per questa sorta di cadavere che ho davanti? Dove ho trovato motivi di ispirazione? Uno poi si fa anche del male. Adesso Gianna, la telefonata che mi aspettavo, che mi manderà fuori dalla grazia di Dio. Alessandra da Roma. Buongiorno. Sì. Alessandra. Devo spaventarmi? No, lei sia sincera, io non faccio male. No, devo spaventarmi. Io sono sincera, sì. La mia è una testimonianza di un amore positivo. Che è iniziato, io avevo 22 anni, oggi ne ho 54, è ancora un amore giovane. E come ha fatto a mantenerlo così giovane? Innanzitutto, certo, è una questione di fortuna, l'incontro giusto, la conoscenza profonda una dell'altro. È facile iniziare una relazione senza conoscersi profondamente, però forse bisognerebbe fare prima il contrario. E lei conosce profondamente l'uomo con cui divide la vita da 35 anni? Sì. Non c'è nessun lato oscuro? Profondamente sappiamo l'uno dell'altro che stiamo percorrendo un bel viaggio insieme. E qual è il viaggio? Un cammino spirituale? Cosa state facendo? Sì, è anche un cammino spirituale, passa anche attraverso la sofferenza, perché poi... Cioè fate parte anche di una figlio. Setta? Ma fate no, parte... assolutamente, no. Siamo due persone socialmente soddisfatte, che hanno molti rapporti sociali, amici, figli di amici... Però che la pensano, anni, che la pensano sempre come voi. Prego? La pensano sempre come voi. Sì, siamo un gruppo allargato di persone, grazie a Dio... Ma siete una comunità, cosa siete? No, non siamo niente, siamo delle persone normali che hanno gli stessi valori, che si vogliono bene. E i valori me ne elenca qualcuno per capire? Non me le voglio sembrare... Ma sono i più semplici, il rispetto, innanzitutto il rispetto l'uno dell'altra, l'onestà nei confronti dell'altro, il sapere che stiamo procedendo questo cammino insieme, vogliamo a tutti i costi condividerlo, quindi ci sono anche naturalmente delle cose da bocciare, delle cose da rinunciare, delle cose da supportare. È una sorta di ascesa, un esercizio, ci si impone ogni giorno. Ma io sono d'accordo per l'esercizio, perché nulla sia gratis. Certo, bisogna trovare il partner che condivida gli stessi sentimenti. Lei dice, ma dice, non è così raro, secondo no, me. Ma si figura, cioè, il mondo è pieno di gente rassegnata. Non esiste soltanto rassegnata? Io sono felice, io non sono... Ma infatti mai sono felice la sua felicità. Il mio erosicamento della persona inquieta. Dice, il nostro amore va innaffiato giorno per giorno. Beati voi che trovate con cosa innaffiarlo. Va bene così, non voglio assolutamente aggiungere nulla, sennò sembrerei cinico. A me però questi quadretti di amore eterno tenuti insieme con la sofferenza e con il martirio, quando arriverete alla fine del vostro cammino guarderete in faccia e dite ci guardiamo indietro, quante cose abbiamo perso forse della vita, forse. Melog, la realtà condivisa. 800 24 0024, chiamate fiduciose, soprattutto voi care ascoltatrici. Molte mi scrivono: sto piangendo per le crudeltà che ho sentito dire. Guardate, se volete rimettere assieme i pezzi dei vostri amori perduti, volete leggere quello che fa bene sentirsi in questi dire in questi momenti, volete conforto, strategie di recupero dei cuori infranti, il Bostic del vostro cuore danneggiato, dovete leggervi il libro di Gianna Schelotto, SOS Cuori Infranti. Lei di mestiere rimette assieme i cocci. Io tutto al più cocci ci sono e più ci sguazzo bene all'interno. Il primo uomo che chiama, Franco da Roma. Ah no, ha scritto un altro un SMS, dice: ditemi dove abita quella lì che dice che sta sempre chiusa a casa da 3 anni, vado a tirarla fuori io. È un'offerta di conforto anche questa. Franco. Sì, buongiorno. Perché c'ha questa voce abbacchiata? Già comincia no, male. No, no, è la mia voce normale. Oh. Che è successo? Niente, è successo che diversi anni fa ho conosciuto una persona, abbiamo cominciato a frequentarci, ma chissà perché il mio istinto diceva che questa persona non andava bene, l'ho più volte allontanata e più volte è ritornata, fino a che non ci sono cascato proprio di brutto. Scusi, ma come la dice lei non si capisce, sembra che lei tiri un boomerang che le ritorna sempre in testa. Che vuol dire più volte la cercata e più volte l'allontanata? No, io l'ho allontanata perché non la ritenevo una persona per me. Ma lei che voleva farne? Sposarsela, passarci la vita assieme? Qual era il suo obiettivo? Ma era all'inizio, ci frequentavamo così, insomma. Ma eravate sposati e erate liberi? Sì. Tutti e due sposati, quindi eravate amanti. E che ne faceva di un amante? Voleva metterla al posto della moglie, lei? Ma poi dopo i risultati sono stati quelli che sono, perché poi... Sì, ma il suo punto di vista qual era? Lei voleva tenersi il giocarello, come tutti noi sogniamo sempre nei nostri più indicibili sogni, da tirare fuori ogni tanto quando si è giù e lasciarla lì, che stava lì a aspettare? No, assolutamente no. Voleva farne un'altra moglie, avrebbe lasciato la moglie e presa l'altra. Volevo conoscerla perché... Eh sì, ma mica ci può mettere 5 anni, uno alla fine... No, dopo un mese e mezzo, diciamo... Lei era disposto a fare il grande passo, a mollare la famiglia e andare con lei? Esatto. Gliel'ha detto, francamente, chiaramente, senza possibilità di equivoco? Sì, e come ha risposto la donna? Ma rispondeva molto bene, fino a quando non siamo stati scoperti, e lì è successa la fine del mondo. Ma perché? Quale occasione migliore? Scoperti, ce la amo, basta, esatto. Vado a vivere con lei, perché non ha fatto questo? Perché lei praticamente è scomparsa. Ah, perché lei non se l'è sentita di affrontare il marito corduto che si era arrabbiato? No, il marito ha saputo tutto quanto, si sono affrontati, da quello che so, con un brutto muso. Cioè col pugnale, con la pistola, con cose sono affrontati? Sì, con tutti. Vabbè, lo so, succede, c'è questo rischio, certo. Quando si è tutti pronti poi uno non ce la fa a fare il grande passo, fa parte del gioco. Sì, ma il gioco è diventato talmente pesante, perché poi lui aveva nel frattempo affidato a un'agenzia investigativa. Lo so. Le solite cose. Ma è il rischio che si deve correre, questo lo sa. Sì, per carità di Dio. Quando si va a pascolare nell'orticello degli altri non si può aspettare che l'altro sta sempre con gli occhi chiusi. Solo che fa parte del rischio. Per carità, no, assolutamente. Solo che poi dopo è scomparso pure lui da questa agenzia investigativa, gli ha scritto eccetera, gli ha fatto un resoconto anonimo e via di seguito, lui ha preso e ha distribuito al mondo intero questa indagine, questo dossier. E cosa c'era? Le foto di voi due accoppiati, cosa c'era? No, tutte cose scritte di È un cornuto felice che ha messo in manifesto le sue corna, ognuno fa quello che vuole nella sua vita. Quanti ne aveva? Ma lei cosa gliene importa, scusi? A lei che gliene importa? Di questo, perché la tocca questa cosa? Mi tocca perché poi alla fine è andato tutto come era prevedibile, nel senso che è andato tutto all'aria. Sarà già prevedibile, perché si stupisce? No, mi stupisco per il semplice motivo che avevamo fatto dei ragionamenti. Ma quanti anni ha lei, Franco? 67. E ancora la sua età non ha ancora capito che quello che si dice, quello che poi accade, è su universi paralleli ma distantissimi. Uno dice nella foga, nella passione, nella voglia. Io sono un sognatore. Ma i sognatori allora devono prendersi l'onere di avere anche il peso dei propri sogni infranti. Gianna Schelotto. Sì, mi lascio un po' perplessa perché l'inizio della telefonata aveva un tono diverso, cioè l'ascoltatore parlava di questa persona che lo ha cercato molte volte e che lui ha più volte allontanate. Invece nella seconda metà della conversazione lui sembra un po' la vittima di tutto questo, cioè il marito di lei che ha fatto le scene e lei che è scomparsa, è questo che non mi torna molto. Ma sai quanto siamo truffatori noi uomini quando parliamo dei nostri amori falliti, figurati. Cerchiamo sempre giustificazioni. Il cuore infranto dov'è? Di chi è il cuore infranto? Ecco. A Roma si dice rosicamento, non voglio andare oltre, basta, gli rode il fatto che il marito ha fatto questa sorta di vendetta pubblica, svergognando la moglie, svergognando anche se stesso. Lei non... Ma lui non ha fatto nulla per concludere questa cosa, voglio dire, se lei era la donna della sua vita ha avuto l'occasione per dire ok. Siamo stati scoperti, era ora, ci saremmo fatti scoprire da sole, l'avremmo detto noi, e invece tutto si è sfaldato e non si capisce bene per colpa di chi o per paura di che. Gianna, ma pensa un po' questa povera donna fra due farlocchi, uno così e il marito che mette manifesti. Lo volevo dire, se no mi accusano di essere femminista. No, io non posso essere accusato di nulla del genere, quindi franca la Piacenza. Sì, buongiorno, dunque anch'io metterò assieme un po' di cocci. Allora, io quando mi sono sposata ero molto innamorata, 26 anni, e come dire, è stato proprio un grande amore, anche perché con un'educazione cristiana io dovevo solo dare. Beh, cos'altro voleva fare oltre a dare? Scusi, l'amore è fatto di una donna che dà e di un uomo che prende. Infatti, è un uomo che prende? No, no, non è esattamente così, ma lo lasci dire, signora, vada avanti. Allora, chiudete la Schelotto. Allora, io ho attribuito al mio futuro compagno. Ma scusa, non le ha insegnato il prete che la donna deve dare e l'uomo deve prendere? Questo no. È la regola cristiana. Hanno questa. Ha insegnato che ognuno deve dare il meglio di sé e non aspettare. Beh, lui glielo dava il meglio. Eravate contenti e poi cosa è successo? Eravamo contenti. Poi cosa è successo? Che nel corso della mia vita matrimoniale ci sono stati dei rovesci, un licenziamento. Io intanto ho insegnato da quando ho 20 anni, ho vinto il concorso subito. Vabbè, questo non c'entra nulla. Allora, no, c'entra perché ho fatto sempre leva sulla mia volontà ed è una premessa indispensabile, perché se non avessi fatto così con il mio compagno non avrei realizzato niente. Perché lui invece cosa ha fatto? Invece niente, è un uomo senza delle grosse aspirazioni, il suo impieguccio, felicissimo della famiglia perché io ero una conduttrice perfetta, tutte le decisioni che prendevo io basta non coinvolgere lui. E non ma l'uomo volitivo con aspirazioni di superuomo si accontenterebbe dell'insegnante che prende e dà? No, non ci starebbe manco una settimana, scusi, ha voluto l'uomo tranquillo che prende e dà e se lo tiene. No, ho voluto vicino a me un uomo con cui condividere, ma non sul quale poi dopo essere solo io a portare avanti la baracca. La morale è dunque, adesso mio marito è mancato e non voglio esagerare. Quindi è morto, adesso è vedova lei. Ecco, io sono vedova. Quindi... Però voglio dire questo, che tutta la mia vita è stata improntata all'essere sola. Mi sono accorta, ecco, che la mia... In più le dico questo, che nella cerchia dove io vivo e nella società in genere, chi sbaglia matrimonio passa per uno sciocco, mentre invece lo sciocco io non lo sono stata, ho solo sento la persona che mi ha voluto bene, non mi ha mai tradito, per l'amore. Però questo che ne sa, non può confermarlo, no, è morto. No, lo so e anche se so pensi... Come fa avere questa certezza, scusi? Perché glielo dico, perché gli facevo molto comodo come persona. Sì, ma come fa avere la certezza che non l'abbia mai tradita, scusi? Ma no, ma la certezza ce l'ho da tante cose, guardi che abbiamo vissuto una vita insieme dal primo giorno all'ultimo. Ma basta mezz'ora per tradire, No, ma il tradimento poi a me non interessa, cioè lo può escludere. Questo lo escludo, ma guardi, mi portava in palma di mano, ero il suo. Tutti i traditori portano in palma di mano, se sono intelligenti vogliono essere coperti, mai un traditore dovrebbe trattare male la propria compagna o il proprio compagno una traditrice, questa è la regola base, mi dispiace che non ci possa essere lui a confermarlo o a smentirlo, però secondo me questo è il mio punto di vista. Melog, la realtà condivisa. Gianna Schelotto, SOS Cuori Infranti, guarire dal mal d'amore. Gianna, tu adesso mi devi dire una cosa, ci conosciamo da anni. Su quale fede, convincimento, principio etico si fondano le tue virtù eroiche? Come fai a sopportare, hai sopportato per la parte più grande della tua vita, queste melenzaggini, queste idiozie e soprattutto queste profonde ipocrisie di persone che si attaccano a dei luoghi comuni nei quali nemmeno loro credono? Il marito che non mi ha mai tradito. Come fa a dire una moglie una cosa del genere? Ha bisogno di dirselo, naturalmente. Ah beh, però sa di mentire a se stessa. Tieni presente, può essere, ma non può essere in assoluto vero. Come fai a dirlo in assoluto? So. Ma tu tieni presente che questa signora ha sposato un uomo tranquillo, che in qualche modo, come dire, facesse, le offrisse una supplenza di tranquillità, quella tranquillità che lei non aveva perché doveva fare, disfare, condurre, cioè lei aveva in mano le redini di tutta la situazione e quindi aveva bisogno di avere accanto un uomo che non avesse iniziativa, proprio le cose di cui si lamenta adesso. Ma in realtà sono le cose che inconsapevolmente, certo, era andata a cercare in quest'uomo. Avrei letto allora la notizia, Gianna, giorni fa hanno condannato a pene durissime una signora americana che nottetempo ha preso un coltello da 20 centimetri e ha castrato il marito in maniera indelebile. Non contenta, il pezzo l'ha pure buttato nella spazzatura, nel tritatutto, in modo che non lo avesse più. È stata condannata per lesioni gravissime, anche molto di più. Questa signora, ritualmente, il giorno che ha detto sì nel suo cristiano matrimonio, ha fatto esattamente la stessa operazione. Per certi versi sì, era adesso tu come al solito sei eccessivo e hai le tinte fosche, però sta di fatto che non solo questa signora, ma in generale quando ci lamentiamo dei difetti dell'altro non ci rendiamo conto che spesso sono proprio i motivi per i quali l'abbiamo scelto. E quindi se io mi lamento perché mio marito non vuole mai uscire, vuole sempre stare in casa, non mi porta mai fuori, in realtà è perché ho cercato in lui proprio una parte di me che mi tenesse tranquilla, ecco. Allora, scriverò con lettere di fuoco nel mio cucinino questa frase, mi servirà a tenere duro ancora qualche altro decennio. Non ti volevo fornire degli alibi, però spero che Natalia mi perdoni. Vittorio da Genova. Eccomi qua, buongiorno. Sì. Diffidate degli amori talibani, di coloro i quali si comprano lo stesso casco della moto e vanno in giro insieme e dopo sei mesi si tirano i piatti. Sono fantastici. Perché diffidate? Sono le occasioni più ghiotte, ma no, di caccia grossa. Io sono più bastardo di lei, dico, mi butto per terra da ridere quando vedo queste cose, non ce la posso fare proprio, guarda, è una cosa che mi... Io sono sposato con una donna da tanti anni, ho dei figli, però, come dire, riconosco il fatto che quando inizia la tua libertà finisce quella di un altro e quindi in qualche modo, come dire... Basta trovare persone intelligenti che questo lo sanno esattamente quanto noi, perché... mi auguro di sì, insomma, io credo che sia lei che il suo pubblico, radioascoltatori, abbia degli elementi di persone come queste di che stiamo descrivendo. Però l'amore talebano, guarda, io ne ho visti talmente tanti passare quando avevo i figli piccoli a scuola che venivano, ti insegnavano come fare le cose, perché noi facciamo così, noi siamo la comune tutti insieme, e poi dopo sei mesi si tiravano i coltelli, perché guarda, è una cosa veramente, io mi buttavo per terra dal ridere. Ma sai, diciamo che le rappresentazioni di felicità, di rettitudine, di nitore estremo, sono sempre sostenute da degli apparati scenografici di un'ipocrisia profonda. Ascetici, direi. Sì, però io penso che ancora peggio l'amore talebano di ritorno, e dopo aver saltato tutte le barricate, tutti gli ostacoli, cavalcato tutte le possibili giumente imbizzarrite, quelli che improvvisamente scoprono l'amore a 50 e passa anni, lo trovo ancora più ridicolo, secondo me. Sì, fantastico, clamoroso questo, sì, sono d'accordo con lei. Ma non saremo mai purtroppo pazienti, Gianna Schelotto, mi dispiace per lei che è un'amica. Gianluca da Torino. Pronto? Sì. Sì. Gianluca, sì. Sì. L'ascolto. Io telefonavo per, ho sentito la trasmissione, sono in macchina e mi è venuta in mente una frase che ho letto qualche settimana fa nel libro Le memorie di Casanova e che insomma in merito a questo argomento... Ne sapeva qualcosa, sì. È una frase eccezionale perché ha detto... Pronto? Sì. Lo dica, perché sennò la dico io, penso sia la frase sia peggio degli innamorati sono gli avari, perché evidentemente gli innamorati come gli avari non vogliono mollare nulla di ciò che considerano il loro patrimonio. Sei d'accordo, Gianna Schelotto? Sì, sì, assolutamente sì, l'avarizia degli innamorati è un'avarizia anche verso se stessi, perché non si concedono visioni diverse da quelle così rassicuranti che si sono inventate, che si sono costruite. Però rispondendo all'ascoltatore di prima, quello degli amori talebani, è chiaro che bisogna diffidare, perché l'idea di sposare una persona che sia la nostra coppia conforme, che abbia i nostri stessi gusti, che viva le nostre stesse emozioni, diventa davvero una sorta di galera, quindi, ma questo credo che tanta gente lo sappia. Senti, ma è cambiato qualcosa negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, rispetto agli annosi problemi? Quanti anni sono? Ci sentiamo alla radio, parliamo sempre di un tuo libro che parla degli amori, degli abbandoni. Non c'è un segno di cambiamento, di mutazione? La società cambia così tanto, siamo multitask, siamo tutto, e ancora ci parliamo di queste cose. Ci parliamo di queste cose perché ancora queste cose sono, non hai idea della quantità di gente che scrive al mio blog di Donna Moderna, Cuori Infranti, per non parlare del mio forum sul Corriere che si chiama Questioni d'amore, cioè io ricevo centinaia di lettere e quindi vuol dire che non è cambiato, sono cambiate le modalità, perché adesso ci sono questi infami traditori che sono i telefonini, che fanno svelare le cose che non vogliamo dire, ma che sono anche i nostri complici. Però per fortuna, quando... Gianna, acceleriamo il processo. Certo, sono cambiate quelle modalità, ma sono soltanto i modi, poi le sofferenze, le parole per dire le sofferenze, e i dolori, e le rabbie, e le vendette, come dire, sono dette con parole diverse, ma il substrato è sempre lo stesso. Ti do subito un caso, Marco da Pescara. Sì. Che è accaduto? Dopo... Sì, l'ascolto. Sì, niente, un po' di tempo fa, in pratica, dopo 17 anni di matrimonio, ho saputo che mia moglie è da 6 che c'ha un'altra persona. Sei anni che ha un amante? Sì. E come ha dissimulato questo amante nella sua vita quotidiana? In pratica... niente, io andavo a lavoro e lui... Veniva a casa. La mattina? Sì, mattina, pomeriggio. Beh, se ne è fatta una ragione lei di questa cosa? Io per questo volevo sapere, quindi, che fare? Beh, ancora vivete assieme. Due sono le vie d'uscita, poi o fa finta di niente, dice vabbè dai, può succedere, è successo anche no, a me tante volte. Ma c'è anche un particolare, perché in pratica lei dice, vabbè, ma lui mi... faceva e mi fa, voglio dire, mi faceva sentire come tu non mi hai fatto mai sentire. Vabbè, 6 anni ci ha messo per capirlo, cioè ho capito, ma chi è D'Artagnan, Rocco Siffredi 2, 6 anni, alla fine viene a noia tutto, non credo sia questo il motivo, no? Io credo che comunque quando ci sia la passione, sia... Beh, adesso cosa fate? Ancora vivete assieme? Condividete questo segreto? No, io... perché da quando poi l'ho scoperto adesso siamo momentaneamente, cioè non so che fare, perché io non ma vivete so ancora sotto lo stesso tetto? No, io sono a casa di amici e lei lì è a casa. E adesso quest'altro se la piglierà H24, che fare? E lei che vuol fare? Lei dice però che l'unica cosa che non avrebbe mai fatto è quella di non dirmelo, in pratica a questo punto avrebbe voluto dirmelo così. Ma era quando scoccava il decimo anno, gli avrebbe detto, guarda, da 10 anni in amante. Vabbè, adesso capisco, guarda, è una cosa brutta, non è da augurare a nessuno, però non lo so, mi sembra che l'abbia già risolta la questione. Che fare? Quando passerà e lavorerà il dolore, sua moglie rimarrà con un amante, non lavorerà più perché nel ruolo di marito non ci starà. Una cosa è andare la mattina alla bottarella 2 ore, una cosa è tenersela tutta la vita, che non credo che sia un onere che gli va. E lei se ne faccia una ragione. Gianna Schelotto, scusa, io non ti voglio rubare il mestiere, non sarei proprio adatto. Di due parole di conforto a questo uomo lacerato. Voglio dire, se questa signora diceva lui mi fa sentire come tu non mi fai sentire, evidentemente avrà scelto la sua strada. Il problema è che nel momento... È facile però 2 ore al giorno di mattina, che tutto va meglio di mattina. Il problema è che quando arriva la resa dei conti poi ci si rende sempre conto che si è spaventati all'idea di fare quel passo e che forse il legame che c'era con chi non la faceva sentire come l'altro era un legame più forte di quello che aveva previsto. Allora in queste situazioni è il cuore infranto, cioè l'uomo tradito che deve decidere se avere, come dire, uno scatto di orgoglio e mettersi alla ricerca di qualcosa di diverso da quello che ha avuto finora, oppure se rimettersi in gioco lui stesso e cercare di ricostruire qualcosa. Buon Gianna, ma se lui questa cosa non l'avesse scoperta e un attimo riuscisse ad annullare la consapevolezza di questo atto fedifrago di 6 anni, tutto tornerebbe come prima, non se ne era accorto, continuerebbe a non accorgersi e forse a vivere bene. E no, avere... il problema è che l'inconscio ci aiuta fino a un certo punto, cioè noi per 6 anni possiamo anche far finta di non vedere, di non capire e anche non interrogarci. Poi a un certo punto arriva l'ora della verità. Quindi lui ha fatto finta, lui aveva capito, lo sapeva. Ma è quasi sempre così, voglio dire. Uno chiude gli occhi. Ci sono domande perché... che non facciamo mai, ci sono ritorni che non ci permettiamo, ci sono dubbi che lasciamo tali e dei quali non andiamo a fondo. Ecco, lui usciva la mattina con la moglie con un muso lungo così, tornava questa tutta allegra che ballava per casa. Doveva questo farsi una non ragione. Lo so, però, a meno che non ascoltasse Melog tutte le mattine, doveva farsi una domanda. Perché fosse così simpaticamente felice. Ma soprattutto se davvero la moglie si lamentava del fatto che lui fosse inadempiente rispetto alle aspettative femminili, beh, è chiaro che bisognava fare un passo in più e capire in che cosa non la accontentava, perché non la accontentava, se faceva degli errori, come poteva fare per emendarsi. Invece tutto questo, cioè, non c'è mai stata una messa in discussione, non ci sono mai stati dei dubbi, è impossibile che in 6 anni non vengano dei dubbi. Questa è la chiave di lettura di tutto il libro Gianna Schelotto, SOS Cuori Infranti, non vi prendete in giro. Alla prossima.